Giuseppe, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Consiglio a tutti gli ascoltatori, zanzara e marijuana, zanzara e marijuana! Ciao ragazzi, io sono etero ma sono frocio della zanzara. Questa è buona, questa è molto buona. Vabbè, diranno che siamo fissati, che siamo malati, che siamo concentrati. Che cazzo è sto rumore? Cos'è il rumore? Il telefono di Parenzo, naturalmente, no? Che tocca dappertutto, cos'è? Un cellulare, no, un fisso, cos'è? Vabbè, diranno che siamo fissati, però, insomma, il materiale che ci offrono ogni giorno questi nazi vegani è incredibile. Adesso il mio amico Red Nonni non può essere classificato come nazi vegano, forse sì, non lo so, come gli estremisti che vogliono ridurci tutti a mangiare erba, a mangiare insalata, a mangiare tutto tranne che i derivati dagli animali. Sentitelo, Red Ronnie, arriverà un giorno. Leonardo da Vinci diceva: verrà un giorno in cui noi consideremo gli esseri animali alla stregua di esseri umani. Vi ricordo che c'era un periodo in cui i negri erano considerati animali. Leonardo da Vinci. Diffidate sempre quando qualcuno vi dice Leonardo da Vinci o chissà chi voleva ridurre il mondo a un'enorme prateria vegana di uomini. Ancora Red, la tradizione dell'agnello, una tradizione di violenza. Tradizione dell'agnello pasquale. Attenzione, l'agnello pasquale è Cristo che viene ucciso, flagellato. Quindi noi ripetiamo una tradizione di violenza. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Allora, ieri abbiamo fatto vedere qui in studio la nostra zanzarina, cioè l'agnellino, il piccolo agnellino, in realtà non troppo piccolo, pesava già 12, 13, 14 kg, che ameremo fino a settembre. A settembre verrà macellata. No, io vorrei salvarla invece, Zarina, la zanzarina adesso. Ma non so, tu vuoi salvarla, chi se ne frega. Vorrei salvarla perché avendola conosciuta, cioè non conosciuta proprio, perché io ero a Roma purtroppo. Avendola vista? Avendo la vista, però mi sono emozionato. Ti sei emozionato? Non riuscirei a mangiarla. Vabbè, ma ne mangerai un'altra uguale, cioè la grande ipocrisia, sì, questa. No, qua. Lo so che è uguale. No, ma sì. ti faccio no, però tecnicamente hai ragione. Beh, che lo so, uguale, ma è così, è la grande ipocrisia. Purtroppo anche tu appartieni al mondo dell'ipocrisia, perché devi dare un tuo, devi mostrare il tuo lato buonista per forza. Ti no, devi mostrare. Ma mi fa proprio materialmente impressione. Ma ho capito, ma allora smetti di mangiare la carne. Vorrei salvarla, anzi, ma lanciare salva un comitato con Daniela Martani che mi ha scritto. Ma quella già mi ha chiamato oggi: dammi il numero del ristoratore lì, dell'allevatore, perché voglio salvare Zanzarina. Sì, la voglio. Salvata, la vuole portare in un santuario degli animali. Esiste salvate, pure. Salvate la zanzarina. Mamma mia, il santuario. Meglio morta che nel santuario degli animali. Guarda, salvato l'agnellino. Meglio l'agnello morto che nel santuario degli animali. Su questo non c'è dubbio. Meglio morto che nel santuario. Comunque, ti leggo alcuni commenti che mi sono arrivati sulla nostra pagina Facebook quando abbiamo pubblicato le foto di questo grande incontro con l'allevatore, con il ristoratore, con Zanzarina che impazzava qui in studio. In realtà stava ferma, un po' si divincolava, eccetera. Allora, mi hanno scritto veramente le peggio cose. Siete affetti da analfabetismo emotivo. Questa è la più morbida in realtà, eh. Quello che mi fa vomitare non è tanto il fatto di uccidere un animale e poi mangiarlo, ma la derisione che ne fate. Mi sembrate quei pervertiti che si fanno le foto con gli animali prima di torturarli e poi le mettono su internet. Venderesti tua madre per un po' di audience in più. Bigliacco senza cuore, ti seguivo. Ora hai solo dimostrato di essere un imbecille, un deficiente. Yes. sei un uomo di merda, dici che la ami e poi la uccidi, ipocrita. Ti auguro di fare la stessa fine dell'agnello. Che schifo di uomo, mi fai rivoltare, tolgo le tende, puzza di malato mentale. Ma è bello che sono soprattutto donne, eh? Sono sopra... No, ma dai, donne, bisogna fare una colletta per salvarla, guarda. Allora, una tale Francesca scrive: crepa in qualsiasi modo. Un'altra, Monica: mi fate schifo, maledetti mangiacadaveri. No, no, no, no, no, ma puoi anche accostarti a questa gente qua, eh? Puoi anche avvicinarti a questa gente. No, io non mi accosto. No, vorrei ma... salvare la ma vorrei salvarla, dai. Visto che l'allevatore ha detto che costa. Meglio morta che nel paradiso, no, là, nel cinema. Meglio vorrei morta. Vorrei salvarla, visto che costa quanto? 250 euro? Quanto ha detto? Ma che non costa? Lo so, 150, 200. Beh, si fa una bella colletta, sono disposto a metterli tutti io a salvarla. Ma figuriamoci. Sì, salvare, voglio stare 150 euro, gli offro all'allevatore. Il grande gesto buonista di Parenzo. No, eh? Ma mi fai l'impressione, avendo una conosciuta l'impressione, dai, è ovvio. Su, dai, smettiamola con queste cazzate. Allora, la Mogherini debole oppure sincera? Meloni e Bertolaso, però amico mio, Bertolaso, ma te che cazzo te ne frega se la Mogherini si mette a piangere? Adesso sei candidato a sindaco di Roma, non è che devi fare il ministro degli esteri di Forza Italia. Ma che te ne frega di andare a commentare la Mogherini? Cioè, no, già hai tanti problemi tu, non si sa bene se sarai il candidato o no. Adesso, la Mogherini per me doveva piangere in privato. Cioè, in pubblico si mostrano le palle, non le lacrime. Questo è evidente, no? Ministro degli esteri dell'Europa, che peraltro ma che un po' non conta una mazza. Comunque, Bertolaso. Trovo imbarazzante che il ministro degli esteri dell'Unione Europea si metta a piangere dopo un attentato del genere. Il ministro degli esteri dell'Unione Europea, come tutta la Commissione Europea, deve far vedere appunto che noi non abbiamo paura. Non ha tutti i torti, Bertolaso. Questa è una sciocchezza mega galattica. Però non ha tutti i torti. A me Bertolaso sta molto simpatico, ma questa è una sciocchezza mega galattica. Non ha tutti i torti in questo caso. Devo dire la verità, non ha tutti i torti. Ma che vuol dire? Ma che stupidità. Ma sì, ma è pianto. Come se Golda Meir non si fosse mai commossa. Ma che discorsi sono? Ma sono uomini oltre che politici. Ma che c'entra? Oh, il filosofo Galimberti ha più o meno le stesse posizioni di Massimo Fini, più o meno, no, più o meno. Sì, no, sì, no, sì, no, sì, come no? Guarda, abbiamo creato noi gli stati in Africa e Medio Oriente col compasso e col righello, senti, addirittura il colonialismo, vero. Senti. Che la si smetta di citare Oriana Fallaci. Oriana Fallaci era una grande giornalista, però gli faceva incominciare la storia l'altro ieri. Oh, non dimentichiamo che un secolo fa siamo stati noi occidentali a decidere che cos'è l'Iraq, che cos'è la Siria, che cosa sono gli stati africani, con un righello e un compasso, prescindendo da qualsiasi conoscenza antropologica, mescolando religioni tra loro. E adesso ci lamentiamo che ne subiamo le conseguenze. Subiamo le conseguenze di quello che abbiamo fatto, dai, pure questa è una mezza puttanata, dai, su. Gasparri scatenato ovunque, eh? I morti sono colpa di Renzi, senti che ha detto ieri sera. Morti sono di cui le regole si rispettano, pubblicità. Sono colpa di Renzi, no. Cioè, uno può dire impunemente che i morti sono colpa di Renzi, capito? Adesso, per carità, l'Europa può avere tutte le responsabilità di questo mondo, ma vogliamo parlare del Belgio. Cioè, vogliamo parlare del Belgio, ragazzi. Di quello stato finto che è il Belgio, dove pare che non si possano fare i controlli dalle 21 alle 5 di mattina, non si possono fare irruzione nelle case. Questo dove, è strano, si questa delle perquisizioni è pazzesco. Dove pare addirittura che, oltre a questa cosa qui, erano stati segnalati questi signori come terroristi, uno stato in cui uno stato allo sbando totale, cioè dove ci sono le istituzioni europee, una cosa folle, cioè il Belgio è uno stato finto. Ah, c'è anche Fiorella Mannoia, a Radio 2, che dice: siamo in guerra, loro ammazzano noi, noi loro ci siamo fatti odiare. La signora Mannoia. Quello che posso constatare è che siamo in guerra, noi ammazziamo loro e loro ammazzano noi. Questo è quello che ci ha portato tutto questo andare in giro per il mondo a destituire presidenti, a metterci nelle condizioni di farci odiare. Questo è davvero come Massimo Fini, cioè praticamente sullo stesso piano i terroristi e le guerre fatte dagli occidentali, eh? Ficarra e picone su Salvini, senti, senti. Ieri c'è stato l'attentato a Bruxelles che ha fatto 32 morti e 270 feriti. E purtroppo tanti nuovi mi piace sulla pagina Facebook di Salvini anche. Purtroppo, purtroppo. Molti lo hanno definito a Salvini sciacallo, sì, sì. Esagerato. Molti hanno detto che Salvini è uno sciacallo. Esagerati, sciacallo. Sciacallo esagerato. Al limite avvoltoio, ecco. Poco, poco, poco, poco. Sono tempi duri, eh. Non tanto per noi, eh. Non ce ne frega niente, eh. Nulla, zero. La Zanzara. Esco adesso da un locale vegano dove mi ha trascinato la mia ragazza. Una porcheria del genere non l'ho mai mangiata. Allora, con noi Giampiero Mughini. Ciao caro, come stai, cari Giampiero? Amici, buona giornata. Bene. Ciao, caro Giampiero, Massimo Fini l'altro giorno da noi, dopo le stragi di Bruxelles, ha detto praticamente che la colpa è soprattutto nostra, che i terroristi hanno la loro nobiltà e che insomma ce la siamo andata a cercare con tutte le guerre. Come lo giudichi? Ma io mi trovo a disagio a parlare di Massimo Fini, o meglio a parlare lui assente. Per quanto lo disprezzo intellettualmente, addirittura. E quindi diciamo esibire questo disprezzo in sua assenza. Vabbè, però questo. Una volta mettetemelo di fronte, insomma, siccome sì, lo conosco molto bene, un po' meglio delle mie tasche, sì, e lo posso misurare al centimetro e alla goccia di alcol. Sì. Alla goccia di alcol. Questo disprezzo ha una lunga storia. Cioè, tu dici che era ubriaco quando. Io non ho detto. Non hai detto questo, per carità. No, per carità, ma voglio però dire queste porcate dopo insomma, dire queste porcate dopo il Bataclan, sì, dopo l'aeroporto, dopo la metropolitana in cui è letteralmente scomparsa una nostra connazionale, sì, dire queste porcate è veramente il segno di una miseria intellettuale senza limiti. Senti, perché sai, chi ragiona, sì, è tutto il punto e la misura del ragionamento. Sì. Io, figurati, sono il primo ad apprezzare i ragionamenti, sì, che non vanno nel senso del vento maggioritario, sì, ma lo devi dire con una tale misura. Tu dinanzi a questi delinquenti, quei due dell'aeroporto, sì, erano due ex criminali da strada, sì, li reclutano nello sterco umano, li reclutano ad ammazzare, a massacrare, e tu dici di questi che hanno delle giustificazioni, erano dello sterco i nostri brigatisti, e dunque, d'accordo, sì, ma insomma non venivano perlomeno dal crimine di strada, venivano dalle facoltà di lettere, dalla federazione non è una giustificazione, non è una giustificazione questa, naturalmente. No, è una differenza. No, erano dei delinquenti anche quelli. No, voglio dire, Fiorella Mannoia, che invece dice: siamo in guerra, loro ammazzano noi loro, beh, ci siamo fatti odiare. La guerra, noi di solito per guerra intendiamo quella che c'è un esercito e un altro esercito. Oggi non si fanno più così le guerre. È vero che al terrorismo hanno fatto ricorso in tanti, per esempio, tanto per dire, delle persone eccetera, gli ebrei in Palestina fecero saltare un intero albergo con gli inglesi dentro, un albergo o una caserma, non cambia nulla. Ma era lì questi delinquenti sanno solo uccidere degli innocenti. E dunque la Mannoia come la giudico quando dice queste cose? No, io penso che Fiorella Mannoia vada giudicata per altre cose, che in questo campo la sua voce sia zero. Senti, a proposito, ci sono dei politici, per esempio Salvini, che si sono fatti delle foto subito dopo gli attentati. Sì, visto, esibizionismo, no? Da quattro soldi. Esibizionismo, cioè, esibizionismo da quattro soldi, che a commentarlo già sprechiamo il nostro tempo. E per esempio un Gasparri che dice che i morti sono colpa di Renzi, che la responsabilità è diretta di Renzi. I morti, ha detto così, Gasparri ha detto, i morti sono colpa di Renzi. Così. Allora, tu sai che idea io ho dei politicanti nella loro media? Sì. Ci sono politicanti che scendono sotto la media. Sotto la media, addirittura? Sì. Beh, assolutamente. Una espressione di questo, io ho sentito alcune delle espressioni di Gasparri in questi giorni, sì, e ripetutamente sono sotto la media. Ah, bellissimo lo scontro con Telese, non so se l'hai visto. Beh, l'ho visto anche. Ora, Luca, che è un mio caro amico, io sono il primo a litigare con lui su certi argomenti. Detto questo, quando ti chiede quanti milioni sono i musulmani, e lui non lo sa neppure vagamente, non sa se sono 300 o 12 milioni, purtroppo siamo sotto la media. Sotto la media? Sì. No, non che la media sia di gente che sa nulla, per carità. Senti, ma le lacrime della Mogherini, cioè, come le interpreti? Io penso che piangere sia un'arte che vada esercitata in privato. Io ho pianto una volta per una donna, ho pianto in morte di Leonardo Sciascia, in morte di Montanelli, sì, non ho mai pianto in favore di Camera. E dunque, non, secondo te, un... Non ne faccio una questione cruciale, sì, non ne faccio una questione cruciale, se le lacrime... le sono scappate, non è, sì, certo un crimine. Di solito quando c'è una macchina fotografica uno dovrebbe evitare qualsiasi, si dovrebbe vivere, beh, non soprattutto dirò, se in una silenzio, persona, soprattutto ma nella discrezione, perfino nella discrezione. A proposito di discrezione, so che mi hai bastonato un po' per quella storia dei 200.000 euro, caro. No, Giotto, ho detto, non posso credere che l'abbia detto. No, l'ho detto, però va spiegata la cosa. Ho capito benissimo. No, la cosa era utero in affitto. Io sono favorevole perché ognuno di noi, se vuole, se può mettere in vendita una parte del proprio corpo, se ha bisogno. Questo lo penso io, naturalmente. No, sì, non è, naturalmente. Non è che lo devi condividere. Ho detto questo e detto in modo esuberante. D'altra parte, tu ami essere esuberante. No, ma per carità, ho detto anche per una cifra tot metterei in vendita. Non apprezzo quella roba. Beh, allora diciamo che ti sopravvaluti un tantino, se me lo consenti. Infatti, secondo me mi sono così tanto sopravvalutato che non c'è. Per quella cifra, non so. Non... Per quella cifra non inculeresti nessuno, diciamola tu. No, poi non è una specialità, per carità, ma voglio dire, no, comunque tu ami essere esuberante, ci mancherebbe. No, ma ho detto semplicemente, ho messo un prezzo perché è talmente alto quel prezzo, sì, talmente alto, qualcuno beh, sa? Alto. Beh, alto, 200.000, vabbè, ragazzi. Ma siccome stiamo parlando di una cosa che è delicata, cioè l'utero in affitto, io capisco il tuo ragionamento, sì, se tu la butti sull'esuberante, il problema lo semplifichi molto. No, perché è talmente alto quell'argomento, cioè dire l'utero in affitto, è un argomento delicato. Sì, d'accordo, però io siccome sono favorevole, ho detto l'affitto del corpo vale per tutti, io do un prezzo al mio corpo, che è questo, c'è, sì, qualcuno disposto? Bene. Però dopodiché l'argomento utero in affitto è tutto lì, in piedi, delicato, no, e certo, complesso. Senti, a proposito, la visione del signor Liguori e del signor Mario Giordano imbavagliati a uso, sì, di telecamera, sì, dopo sì, il derby di Torino, come l'hai, sì, visto quella cosa lì? Beh, tu sai che io con i miei amici Paolo e Mario litigo su quegli argomenti. Loro si riferivano al fatto che per avere detto recentemente delle porcate sull'arbitro Rizzoli, sì, sono, sì, stati da lui denunciati, sì, denunciati. Naturalmente io sono anti querela, sì, e come ho detto all'uno e all'altro sono pronto a testimoniare in tribunale dicendo che per loro vale l'incapacità, ho capito, di intendere, ma... di volere quando parlano della Juventus. Ho capito, però si sono imbavagliati davanti alla telecamera perché... È un altro esempio di mancanza di discrezione, ma anche lì però non è che c'è un reato. No, vabbè. Ma facciamo una protesta, c'è una mancanza di discrezione. No, vabbè, ma quello d'accordo, quello è esibizionismo, ma pure non è quello. Beh, è un reato, insomma, è un reato dire delle cose, insomma, no, è un reato intellettuale, è un reato di sbraco dire talvolta delle cose in punto di fanatismo e di odio antijuventino che, insomma... Senti, ma tu mangeresti... Sai, non ho mai detto una parola anti qualcosa con nessuno, tranne naturalmente la cosa talmente palese, sì, che l'Inter ha nella bacheca uno scudetto di merda e di cartone, ma questo non è nulla di fanatico. Beh, di è una cosa di fatto. Di merda, di merda, di io merda sono d'accordo. E di cartone. Io sono arrivati a 15 punti quell'anno e poi sono stati riconosciuti colpevoli anche loro di telefonate ed era un reato caduto in prescrizione. Se non è merda e cartone questo. Andiamo avanti. Ti abbraccio, a presto, ciao. Ciao David. Ciao ragazzi. Cruciani Wakbar! Cruciani Wakbar! Il segnale orario vi è offerto da Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. La Zanzara. Sono qui sotto la neve, ho appena battuto con la macchina, sto aspettando il carattrezzi. Nel punto in cui sono non prende Radio 24. Sono una bestia, sono una bestia. Andate a fanculo tutti. Eccoci qui, eccoci tornati. I numeri di telefono per chiamare, fate il cazzo che volete, 800 24 00 24, centralino, 393 71 71 701 per i vostri messaggi vocali, WhatsApp. Inutile che chiamate a questo numero, tanto non risponde nessuno. Caro Parenzo, mi hanno regalato qualche giorno fa un libricino che ha come titolo Igiene sessuale. La quarta edizione, Milano, Ulrico Oepli editore. Beh, è una casa editrice scientifica. Assolutamente, e l'autore il professor dottor Franceschini, Manuali Oepli. È un piccolo libricino, molto antico. Lo sai quando è stato pubblicato per la prima volta? Nel 1929. Nel 1929, cioè, ho un libro del 1929 che ha come titolo Igiene sessuale. Ecco, perché vedi, all'epoca infatti le malattie venere erano molto... Sì, non molto so perché, non so perché me lo hanno regalato, in realtà. Beh no, fatti delle domande, effettivamente. Mi hanno regalato questo, guarda, tieni, tieni qua, Igiene sessuale, lo sto compulsando e effettivamente ci sono delle parti molto molto interessanti, molto molto interessanti, e di cui naturalmente renderò edotto il grande pubblico della radio e il grande pubblico della Zanzara. Cruciani, ho i 200.000 euro. Mi scrivono, stasera vado a vedere macellare il povero agnello che ho comprato. Non ho voglia, ma penso che sia giusto guardare per essere coscienti. Andare alla market e buttare tre bistecche nel carrello significa lavarsene le mani. Dario, io sono d'accordo. Purché poi se tu resti impressionato e non vuoi più mangiare la carne sei liberissimo di farlo, basta che non rompi i coglioni a quelli che continuano a mangiare la carne, ma è l'atteggiamento giusto, cioè bisogna essere consapevoli di uccidere, essere consapevoli di uccidere e di provocare sofferenza, uccidere e provocare sofferenza, sì è vero, è inevitabile, è così, è il destino di questi animali, c'è una differenza tra animali ed esseri umani. Animali da una parte, esseri umani, bisogna essere coscienti di questa roba qua, non bisogna essere ipocriti, bisogna essere coscienti di uccidere e di far soffrire gli animali. È così, è vero, confesso, lo confesso, sono un carnivoro, uccido indirettamente ovviamente e indirettamente faccio soffrire le cose che mangio, lo ritengo inevitabile e anche giusto. E andate veramente tutti a fanculo a questo punto. È un discorso logico, guarda, ci ho pensato un sacco di giorni. Non fa una piega. Non fa una piega. Non fa una piega. Non fa una piega. Non fa una piega. Poi, per esempio, c'è uno studio oggi dell'Università di Oxford. Mi vengono a raccontare che con la dieta vegana ci saranno 8 milioni di morti in meno entro il 2050. Vabbè, questo bisogna vedere cosa dice. Cioè, se tutto il mondo adottasse un'alimentazione vegana, ma io dico, ma come cavolo si fa a mandare in giro questi studi? Ma che vuol dire se tutto il mondo adottasse un'alimentazione vegana? Ma è impossibile. Saremo probabilmente travolti dagli animali, distrutti, non lo so, perché non sono un esperto, ma mi pare abbastanza logica la cosa. Comunque dicono che se tutti quanti diventassero vegani, pensa che tristezza, con la dieta vegan 8 milioni di morti in meno entro il 2050. A parte che la morte serve, no? Cioè, forse siamo anche troppi, no? Dunque, perché? Ma perché non dobbiamo, cioè, perché non si deve morire? No, ma siamo troppi in questo pianeta, no? Cioè, per cui non. Ci sono troppi idioti in questo pianeta. Vabbè, quello, gli idioti ci sono sempre. Quello, quello è chiaro. Quello è chiaro. Ma non. Allora ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Vicenza. Stefano, vai Stefano, dimmi. Sì, pronto Cruciani, mi sentite? Dimmi, dimmi, dimmi. Allora, io faccio una promessa. Sì. Come lavoro, lavoro in una in tripperia. Lavori? In tripperia si chiama. In in tripperia, beh, straordinaria la tripperia, la tripperia. Andiamo tutte le mattine al macello. La tripperia è dove praticamente fanno le trip, quella che in francese viene detta le trip, cioè la trippa. In francese è al plurale le trip, capito? Le trippe. Stupenda, la trippa è meravigliosa. La trippa è qualcosa di sensazionale. Stefano, ma tu fai la trippa? Beh, no. Andiamo in macello, arrivano l'interiora, noi le puliamo, le sgrassiamo, dopo... E dopo che fate? Mangiate, vendute. Sì, d'accordo, ma tu vendute. Di lavoro che fai? Arriva all'interiore del manzo. Sì, del ma tu che fai di lavoro? Che cosa sei? Un macellatore? Che sei? Sì, praticamente sì. Cioè lavori in una macelleria, in sostanza? No, al macello. Sì, al non macello. In una macelleria, al macello, vabbè, d'accordo. E come al si macello. Chiama tecnicamente il tuo lavoro? Che ne so, ammazzatore di animali, macellatore di animali, come cazzo si chiama? Tripperia. In tripperia, vabbè, sei un trippatore, che sei? Un trippatore, che sei? Come si chiama? Sì. E che ne so io, avrai un mestiere, no? Se tua figlia o tua moglie ti domanda che mestiere fai? Lavorazione, sottoprodotti, macellazione. Ah, ok, va bene, una cosa complessa. In pratica lavoriamo l'interiore. Sei un operaio, sei un operaio degli animali, insomma, un operaio, un operaio, dai, un proletario, un operaio. Dunque, sì. Quanto guadagni, dunque, Stefano, quanto guadagni? Beh, normale. Vabbè, dimmi quanto guadagni, mica sono la guardia di finanze, non te lo qua. 1.200, 1.300. Più o meno 1.200-1.300 netti al mese, sì. Netti al mese, sì, ce la fai a campare? Io mi sentirei un morto di fame se fossi, però va bene, cioè, nel senso, mi sentirei con la vita che faccio io, per carità, ma io ho grande rispetto, grande rispetto. Sì. Cioè, ce la fai a campare o no? Madonna, sì, dai. E tua moglie guadagna? No, non sono sposato, da solo. Da solo, vabbè, da solo che te frega, dai. Da solo si campa, si può campare anche con 1.200-1.300, dai. Sì. Vai. Sì. E dunque non me ne fotte proprio un cazzo di animali che vengono mangiati, non mangiati, che qua, che là, no? Vabbè, ho capito. Dunque, che mi vuoi dire? Dunque volevo fare una proposta. In pratica si può fare un'asta per mangiarci zanzarina. No, un'asta per mangiarsi zanzarina. Ragazzi, noi abbiamo... Qui c'è la follia ormai. No, noi abbiamo adottato questa... Abbiamo adottato questo. Io la salverò, guarda, dico questo. Tanto dopo viene macellata e si mangia. No, ma ragazzi, salvata quella. No, ma ci sono già troppe candidature per salvare. Questa, e quindi verrà salvata. Io l'ho battezzata Zanzarina, è l'agnellino della zanzara. Resterà tale fino a settembre, quando serenamente. Che ne dica il signor Red Ronnie, il mio amico Red Ronnie, che ne dicono altri, serenamente, tranquillamente. Con calma e anche col sorriso, diciamo, no? In qualche modo col sorriso, verrà portata al macello. Ma tranquillamente. Vabbè, Stefano, mi dispiace, ma è già stata giudicata la zanzara. Michele da Milano, vai. Michele. Va bene. Michele, dimmi. Dimmi. Buonasera, Cruciani. Vai. Allora, senti, per l'ISIS, il terrorismo. Sì. Da che i tempi conosciamo, no? Il terrorismo si combatteva con la decimazione. Ora, io non voglio dire che dobbiamo prendere 10 parenti o 10 persone islamici e massacrarli, ma perché non colpiamo attraverso una pena carceraria i parenti più stretti? Cioè, non ho capito, spiegami che vuoi fare concretamente. Aspetta, magari è una logica. Cioè, dobbiamo prima conoscerli i terroristi, quali sono, cioè, sì, quelli individuata la famiglia, io arresto alla pari il padre, la madre e i fratelli. Arrestare tutti i familiari dei... Non tutti, almeno quelli più prossimi, perché questo può essere un deterrente, accidenti. Ma se la ma guarda che qui, ma così vuoi anche discutere. Allora, Michele, tu stai dicendo... Parenzo, scusami. No, ma Parenzo. Scusami un attimo, poi si può dire qualunque bestialità. Posso chiedere licenza di non sentire la voce di Parenzo? Posso dire che non voglio sentire bestialità? Posso chiedere licenza di... Posso chiedere di mandarla a fare in culo per la bestialità che ha detto? Possiamo riconoscere che ha detto una bestialità? Possiamo chiedere anche con forza a Cruciani, è la tua opinione, che ha detto una bestialità? Parenzo, è la sua opinione. Allora, Michele, io penso che i familiari dei presunti terroristi o dei terroristi vadano ovviamente interrogati. Ma è ovvio, quello. Interrogati fino in fondo, sì. Anche con metodi, come dire, per la mafia. I metodi non convenzionali, però adesso, Michele, arrestarli tutti dal non so fino a che grado di parentela, mi sembra una cazzata, se la responsabilità è comunque individuale. Poi è evidente che se sono conniventi può essere una cazzata, Ma io toglierei il ma può essere un deterrente. Un deterrente. Perché io sono stato alcune volte nei paesi arabi a fare vacanze. Adesso non è che sei stato, ma se, non è che se sei stato nei paesi del Maghreb a fare la vacanza diventi immediatamente un esperto di terrorismo, amico mio. No. Ma però posso garantirti che queste giovani leve hanno fame di ricchezza. Ma questo che vuol dire? Tutti, anche qui in Italia c'è un sacco di gente che ha fame di ricchezza e di denaro. La religione, probabilmente la religione è solamente una giustificazione. Sì, ma dietro ci sono sempre i denari, non c'è dubbio. Il soldo porta sempre da qualche parte. Fermo lì, fermi tutti. Si può mangiare la frippa senza vino? È come andare al casino e non trombare. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. La Zanzara. Ma quando chiuderanno questa trasmissione? Io cosa cazzo mi ascolto? A questo ci pensa Squinzi? Oh, a proposito, Parenzo, io voglio, siccome non voglio entrare in queste beghe, in queste voci, in queste notizie. Beghe, di gossip che vengono diffuse spesso ad arte su una possibile chiusura di questo grande luogo di libertà. Veleni, polpette avvelenate. Può essere, ovvio. Non c'è nulla di vero, naturalmente, e anche se ci fosse qualcosa di vero, me ne fotto totalmente, come puoi immaginare. L'editore ha diritto di fare quello che vuole. No, ma soprattutto, no, ma al di là di questo, me ne fotto totalmente perché io, di persona, non ho mai conosciuto nessuno che comandi a Confindustria, capisci? Cioè, io non so nemmeno chi sono questi qua che si candidano adesso. Ma non so chi sono, ma lo dico con affetto, non lo dico con livore. Non so chi sono. Beh, e soprattutto. Neanche io di persona. No, non li ho mai visti in faccia, ma soprattutto non mi interessa. Vabbè, ma adesso questo lo dici tu. A me non mi interessa. Non mi interessa affatto. Voglio rispondere semplicemente con una canzone, perché mi è venuta in mente una canzone di un personaggio mitico che ho conosciuto anche negli ultimi giorni prima che morisse. È stato ospite ogni tanto qui alla Zanzara. Ecco, mi è venuta in mente. Beh, sì, te lo ricordi sicuramente. Anche tu, mi è venuta in mente quando ho letto le notizie che riguardano questa trasmissione, notizie secondo me totalmente false, ma comunque ci possono anche stare, mi è venuta in mente questa canzone. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà. Libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene, libertà che è libertà. La vita così alla giornata con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Solo questo, caro Parenzo, solo questo. È una canzone meravigliosa di una persona straordinaria che certo aveva mille difetti, ma sicuramente non era uno che, insomma, no, non era uno che piegava la testa, non ma era uno è venuto da noi? Non era uno che leccava il culo, come dire, no, non era uno che leccava il culo. Senti, quando è venuto? Non me lo ricordo, è venuto un paio di volte, era già, diciamo, negli ultimi mesi prima della morte. Io mi ricordo che l'ho visto Califano, credo che no, questi... io l'ho visto certo, no, l'ho visto a una cena. Esatto. Una esatto, bravo, quella volta lì, l'ultima volta che l'abbiamo vista era quella della signora Rizzoli, sì, della signora Rizzoli. Ti ricordi che era in un angolo lì già malato, sì, col bastone, no, tutto bianco. Mi ricordo che siamo andati ad omaggiarlo, ma non mi ricordo che era venuto ospite da noi. Sì, era venuto già una volta, un paio di volte, sì. Guarda, credo un paio di volte. Quella più pulita, prima o poi le corna te le fa. Ma adesso le corna te le fa, questo dipende. Beh, a te piace, quindi va bene. Solo questa libertà. Vivo la vita così alla giornata con quello che dà. Ragazzi, però adesso bando alle ciance, a queste minchiate, voglio farvi ascoltare un personaggio, il mitologico professor Pietro Melis. Ah no. Caro Parenzo, il professor Pietro Melis è un signore che ha studiato. È una brutta persona. Io No. È uno che ha insegnato all'Università di Cagliari. All'Università di Cagliari. È uno che è stato condannato per antisemitismo. Sì. Condannato. È una brutta persona. E ripeto, condannato per antisemitismo, per avere detto una boiata pazzesca sulla macellazione delle carni ebraiche, una cosa incredibile. E nonostante questo, scrive ancora delle cose pazzesche. Per esempio, ha scritto: viva le bombe di Bruxelles, ne occorrono altre. Cioè, per farci capire che siamo di fronte ad un'invasione islamica, no? Poi ha detto: alla sporca faccia di Giuseppe Cruciani, siccome è un animalista convinto, lei è un impostore che fa schifo, perché giustamente la vegana che era in trasmissione a Tagadale ha fatto notare che tutti quelli che mangiano carne sono degli impostori come lei, che non hanno il coraggio di andare in un mattatoio. Ha scritto anche: con grande piacere le metterei una corda al collo. Poi basta manovrare una leva per aprire una botola e fuori da questa terra uno schifoso individuo come lei, senza spargimento di sangue, perché anche il suo sangue sarebbe schifoso. Un essere ignominioso e impostore che tuttavia si dichiara contrario alla pena di morte, eccetera, eccetera. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa. Pronto? Sì, stavo cercando il professor Pietro Melis. Sì, un attimo. Grazie. Sì, pronto. Professore? Sì. Sì, salve, buonasera. Io sono quello che ha la sporca faccia. Pronto? Sì. Professore, sono quello che ha la sporca faccia, quello che lei vuole vedere morto, Giuseppe Cruciani. Come sta? Non voglio parlare con un individuo sporco e lercio come lei. Scusi, professore. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà. Libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene. Pronto? Sì, pronto, buonasera. All'Università di Padova. Le posso passare il professor Riccardi? Riccardi, ma... Un attimo solo, il professor Riccardi le passo. Professor Melis? Si parla? Sono professor Riccardi, Università di Padova, buonasera. Senta, ma è veramente lei, professor Riccardi? Sì, professor Riccardi, io ho letto le sue interessanti disquisizioni sulla vicenda di Bruxelles e volevo invitarla qui alla mia facoltà. No, io non posso muovermi, non viaggio dal 2009, ma io pensavo che fosse una telefonata a tranello, perché ieri ho ricevuto... una telefonata da un certo Giuseppe Cruciani, sa chi è? Quello no, che no. Del Radio Crucia. 24 Ore, la Zanzara. Ah, no? Per carità, no, quel demente. Ha provato a chiamare anche me qualche giorno fa. No, quel un cretino da cacciare. No. Quando mi ha telefonato gli ho detto di... L'ho mandato a quel paese... E ho detto di non permettersi di telefonarmi un'altra volta. Ci mancherebbe altro. No, perché volevo proprio, stavo facendo un seminario sui temi della guerra, della pace e del terrorismo, e quindi le sue riflessioni che ho letto mi sembravano interessanti. Senta, piuttosto io la potrei aiutare inviandole un mio testo di 900 pagine. Sì, d'accordo, in PDF. È un libro enciclopedico, perché tratta anche di questi argomenti. Lei cosa sostanzialmente sostiene? Che queste bombe ce ne volevano di più, sostanzialmente, no? Senta, perché non mi lascia il suo numero e io la richiamo? Sì, prenda carta e penna. No, perché dopo quella telefonata del Cruciani io sospetto che ci sia un solito trucco di quel farabutto disonesto. Ancora questo Cruciani, ma chi... Beh, io l'ho sentito forse una volta, perché è quello che fa la trasmissione lì alla radio. Sì, no, è Radio 24 chiamato la Zanzara, perché... No, ma non è possibile, 24 è quella della Confindustria, non è possibile. No, sa che cosa fa questo qui? Ha fatto cadere nel tranello, per esempio, Odi Freddi, l'ha fatto cadere nel tranello... Professore, certo. Facendo imitare la voce del Papa, no? Beh, è una roba criminale proprio. Perciò io, dopo questo precedente, io diffido di queste telefonate. Se mi lascia il suo numero, la richiamo. Come no? 348 7374 7374 2 chiude, la richiamo io. Ah, mi richiama lei, d'accordo, mi richiami tra due minuti allora, grazie. Non mi fido di nessuno, sono rose e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto. Pronto? Eccomi, Melis. Senta, io sto guardando l'Università di Padova, che cosa insegna lei? Dottrina dello Stato, le passo il mio assistente. Salve professore, vogliamo organizzare il suo viaggio? No, non posso muovermi da Cagliari. Ah, nulla, non si può muovere? No. No, le volevo dire che probabilmente sarà presente anche il signor Cruciani, Giuseppe Cruciani. Mi pare che questo sia un trucco, la telefonata di proprio di Cruciani. Amico mio, ma perché mi dici che ho una brutta faccia? Perché mi dici che ho una brutta faccia, una sporca faccia? Che t'ho fatto? Io che cosa ti ho fatto? Ha visto che è Cruciani. Allora, guardi, vada a fancuneo e non mi rompe con no, lui. Cuneo, no, Cuneo. Allora, il professor Melis, ecco, il professor Melis, no, bene. Il professor Melis è stato condannato perché invocava le camere a gas naziste, sì, per i maledetti ebrei colpevoli di praticare la macellazione rituale. Esatto. Allora, questo stronzo che ha insegnato allo stronzo, non so se si può dire, forse è troppo no, poco. No, lo puoi dire, è troppo che poco. Ha insegnato all'università, all'università ha insegnato di Cagliari, sì, e che ora non ha il coraggio di ripetere al telefono, dalla sua viva voce schifosa, quello che ha scritto pochi giorni fa. Esatto, che ci vorrebbero altre bombe, ha detto, ci vorrebbero altre bombe a Bruxelles. Il professor Riccardi, che voleva semplicemente, come dire, invitarlo, certo, a un grande convegno, lui ha affiutato evidentemente che c'era il tranellino, il coniglio, ha affiutato il tranello e si rifiuta di confrontarsi. Io lo chiamerei di nuovo adesso, subito, di vabbè, nuovo. Ma non bisogna annunciarle queste cose, non capisci un cazzo. Come no? Aspetta. Subito. Allora, Simone, provincia di Milano, vai, Simone. Simone Spezia, sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Niente, io volevo intervenire perché stamattina, leggendo Libero, mi sono soffermato sull'articolo dove si parlava di Adele che ha dato dei bastardi ai terroristi di Bruxelles. Sì, molto bene, molto Fiorella, bene, sì. Esatto, e di Fiorella Mannoia che... che ha messo sullo stesso piano, come ha fatto Fini, esatto, quelli che fanno quindi, gli attentati e, no, e esatto, alcuni stati, me, eccetera. Esatto, quindi secondo me, cioè, Fiorella Mannoia è complice dei terroristi dell'ISIS. E dunque che dobbiamo fare? Arrestarla? Che dobbiamo fare? No, bisognerebbe comunque tenere in considerazione che probabilmente all'interno della nostra società c'è gente che probabilmente tollera o si piega ai voleri di questi terroristi. Mm. E questo mi porta a una riflessione abbastanza grave, se vogliamo. Vabbè, lei è colpito da queste cose. Noi che però, no, se lei è colpito da queste cose qui, ha detto... Il problema è che queste considerazioni portano che se noi abbiamo all'interno della nostra società occidentale, nella nostra razza bianca... Sì. Razza bianca, ma dove stiamo? A cosa? All'interno della nostra razza bianca, che siamo? Nel nazismo? Abbiamo all'interno dei personaggi del genere, si può capire perché. E dunque, che dobbiamo fare? Sopprimere la Mannoia? Che dobbiamo fare? La mandi semplicemente, però, se non è d'accordo, la mandi semplicemente a fare in culo, punto e basta. Cioè, non è che una donna non si manda mai a... Ma come no? Ma guarda che ogni tanto il vaffanculo però, è salutare, però, il vaffanculo. A me dà pensare sul fatto che uno come Breivik si era posto il problema che ci sono probabilmente dei semi malati all'interno della nostra società. No, non ho capito. Chi è che si era posto il problema? Breivik, il criminale. Breivik. E dunque? Breivik. E dunque? Lei provi a ragionare, no? Se all'interno no, provi a ragionare società, cosa? Non ho capito. Breivik. Se all'interno della nostra società ci sono delle figure, no? Che diventano complici dei terroristi. E allora? No, quello ha fatto una strage. Sì, ma quello... Ma lei è un coglione, ma quello ha fatto una strage. Che modello può essere uno che ha fatto una strage? Ma certo che no, ma è per assurdo, è l'assurdità. Ma non, l'assurdo, no? Ma assurdo è quello che hai in testa, le pigne che hai in testa sono assurde. No, le pigne. No, l'assurdo. Hai le pigne in testa. È che purtroppo all'interno della nostra società, così come lo siete anche in parte voi che... volete tutta una società tutta mischiata, sì, siamo tutti froci, sì, certo, sì, bravo io bravo, no, sì. Voi bravo, sì, cosa, voi sì bravo. Noi no, siamo froci, sì, no. Infatti noi siamo molto froci, sì, sì, eccetera, ecco, ci inchiappettiamo, questo, e vogliamo essere inchiappettati, sì, è vero. Perfetto. No, adesso questo no, anche le vostre no. Considerazioni, sì, le perché vostre, a te danno, perché idee, a te i froci danno fastidio, a te i froci danno fastidio, sì. Ah, ti danno fastidio i froci adesso, le vostre idee porteranno alla distruzione. Le nostre idee porteranno alla distruzione, sì. Ma tu hai le pigne in testa. E ci sarà purtroppo gente che per quelli come voi purtroppo pagheranno un caro prezzo. Ma quale pagheranno? Ma tu sei che quotidiano ha detto che lei è lei? Integrazione, tutto qua. Ma questo che c'entra? Ma che c'entra questo? Cosa c'entra? I risultati, perché poi dopo, da passo dopo passo, si arrivano a concedere delle idee, dei concetti che vanno a stravolgere la società, creando poi dopo quello che succede. E dunque non ho capito perché gli omosessuali stravolgerebbero la società, spiegami Simone, non ho capito. Certo, perché non si rispetta più la famiglia, non si rispetta più il ruolo dei genitori, dei padri. Dei padri, certo, eccetera, va dei tutto padri, bene. Ma non ho capito, ma qual è il problema se uno vede completo, l'assismo completo. Ma non ho capito, ma se due uomini si baciano, si vogliono bene, si vogliono anche trombare, si vogliono amare, vogliono fare sesso, qual è oppure due donne, oppure ti dà fastidio più vedere due uomini? No, attenzione, quello se lo vogliono fare a casa loro lo possono fare. Ma cosa vuol dire a casa loro? Ma il problema è quando si vuole incominciare i matrimoni e i figli no, beh, certo. Tu quanti figli hai? Due. Due, professore, quanti anni hanno? Beh. 6 e 10. Se mi sa che quello di razza di padre. No, però il problema è questo. Secondo me, caro Simone, quello di 10 è maschio? Tutte e due. E se diventa frocio? Se diventa frocio? Sarebbe un grosso problema. Ma il problema ce l'hai tu in testa, ce l'hai. C'è un problema per lui di avere un padre così. Il problema ce l'hai tu in testa, la pigna ce l'hai in testa. Il problema sei tu, non è lui, se dovesse diventare omosessuale. Guarda, possono solo essere fieri e orgogliosi di avere un papà come me, perché non gli faccio mancare niente. Questo lo lasci decidere a loro. Sì, questo è poco ma sicuro, sicuramente. Lasci decidere i suoi figli. Sicuramente, Parenzo, non sarete a giudicare come cresco. Ma io non mi permetto di giudicare i nostri figli. Ma dalle stronzate che ho sentito, guarda. Vabbè, ciao Simone, ciao. Vai, curati, vai. Viva i Fraci! Viva i Fraci! La Zanzara. Allora, ragazzi, a 2-3 giorni dagli eventi di Bruxelles ospitiamo uno di quei personaggi che è stato qui diverse volte. Ve lo presentiamo in questo modo, dai. Pensate se ai nostri nonni avessero raccontato che noi ci lasciamo togliere i canti natalizi da una banda di cornuti slavici di merda. Detto con il massimo rispetto per gli imam, per tutte queste palandrane del cazzo che circolano liberamente, che organizzano terrorismo, attività sovversive che nessuno controllava in questo paese di Pulcinella. Mario, come stai? Molto bene, perché purtroppo i problemi vengono a galla. Avevi ragione tu, si potrebbe dire, no? Quello che noi dicevamo in termini cauti moderati. Quando era il momento della denuncia e dell'allarme, oggi siamo a uno stadio purtroppo successivo, cioè al momento delle decisioni terribili che bisognerà prendere. Non c'è dubbio della privacy di tutte queste norme che hanno impedito i controlli e che hanno fatto diventare il Belgio uno stato groviera. Ecco, a proposito, un paese groviera, perché non è nemmeno uno stato. Però scusami, Mario, a questo proposito, tu che vivi in Belgio spesso, vai in Belgio, ma ti pare una cosa normale che per esempio il sindaco di Molenbeek, praticamente un simil Parenzo, potremmo dire, no? Cioè, è una io non offendiamo l'amico Parenzo, io non lo offenderei paragonandolo a una merdaccia del genere. Allora, per vent'anni, per vent'anni il signor Moreau, quello che tu chiami sindaco, in realtà è come fosse il capo di una circoscrizione, no? Di una è zona. È il collaborazionista del nemico. Allora, bisognerebbe processarlo. Allora, è stato sindaco per vent'anni. Della polizia, è sostenitore al massimo del multiculturalismo, della convivenza. E diceva di non circolare in auto per non disturbare il Ramadan, cioè, capito? Certo, questo signore diceva che no, per capire la mentalità, no, perché il PD a Roma regala i locali per un mese per fare il Ramadan. Vabbè, quello però tu non ho capito, le moschee le chiuderesti in Italia, le moschee? No, io ho una posizione molto chiara e qual è la quella posizione della Lega, e cioè da un lato ci sono una minoranza di capi islamici, per esempio quelli che fanno capo al Quraysh, che sono persone per bene e diffondono messaggi di pace che sono, diciamo, l'Islam tradizionale. E il nemico dell'Islam politico terroristico che purtroppo oggi ha invaso le moschee. Il problema non è bisogna chiudere o no queste moschee. E bisogna chiudere o no le moschee italiane? No. Io dico che questa stragrande maggioranza di moschee nelle quali si allevano i terroristi e comunque si diffonde ideologia pro terroristica sono un pericolo pubblico. Vabbè, allora però andiamo a Bruxelles. Devono essere chiuse ieri. Andiamo a Bruxelles. Io so che al Parlamento Europeo, caro che Mario, succede al Parlamento Europeo? Parlamento Europeo ci sono un sacco di dipendenti islamici. Questo è sorprendente, no? Ma dipendenti, funzionari del Parlamento. No, c'è una situazione molto pericolosa che io in passato ho già segnalato alcuni anni fa. E cioè le pulizie, quando noi arriviamo, io sono un mattiniero alle 8:15, sono sempre in ufficio e quando io arrivo vedo uscire torme di signore col velo personale di servizio, personale che svolge questi lavori e sono tutti arabi, tutti allora le pulizie al Parlamento Europeo vengono fatte da personale arabo, dici tu? 99% allora arabo. Cosa fare? Aspetta, la domanda che io porto anche in passato, aspetta, voglio capire cosa fare con questi signori qui dopo la pubblicità. Fermi. La Zanzara. Allora ragazzi, siamo qui, la Zanzara di giovedì che cazzo di giorno è? 24 marzo, non so da quanto tempo non interveniva, c'è in collegamento con noi Marione Borghezio. Sì, io voglio chiedergli una cosa, Marione, però, sta dicendo una cosa fondamentale, sta dicendo che al Parlamento che dare i lavoratori musulmani adesso sentiremo europeo, adesso cioè, sentiremo però c'è una cacca all'uomo, vecchio mio. Aspetta adesso sentiremo tutto però c'è Riccardo da Roma che non se è Riccardo da Roma the original one, cioè, stai bloccando le rotative. No, non sto bloccando le rotative, siccome Parenzo, stai zitto un attimo. Riccardo, vai. Sei tu? Mamma mia. La demenza pura, il simbolo della decadenza dell'Occidente. Cioè? Il simbolo della decadenza dell'Occidente. Ecco, aspettato mesi di intervenire. Allucinante, una cosa, la solita dirigera bollista, zuccherosa. Bisogna integrare di più. È inutile chiudere le frontiere. Accettiamo appena diceva che gli islamici, no, quello, ma cosa quello vuoi chiudere? Ha bloccato il traffico per il Ramadan. Parenzo, cosa c'entra questo che ha bloccato il traffico? Perché non si può bloccare il traffico? Ma che cazzo, una cosa allucinante. Sai che, Parenzo, hai presente il film sugli zombie, Cruciani? Ho visto Dead Man Walking, qualche film sugli zombie l'hai visto? Walking hanno Dead, tutti lo stesso cliché. Capolavoro assoluto è Dawn of the Dead, quello là del 2004. Allora c'è questa epidemia, ci sono gli zombie, nessuna malattia incurabile, piano piano si diffonde. Sì. I capoccioni non capiscono cazzo, la pensano tutti alla Parenzo, perché Parenzo è il leccaculo che è l'eco dei capoccioni, no? Sì. Sono dei malati, curiamoli, sono dei malati, no? Nessuno capisce che bisogna sparargli in testa. Ma qual è la metafora di questo povero imbecille? Qual è l'affrontata di questo vengono imbecille? Subito additati a dei fanatici, a dei pazzi, e vengono rinchiusi. Addirittura in alcuni film coloro che sparano in testa allo zombie vengono carcerati per omicidio. Sì, quando sì. A un certo punto è troppo tardi di Riccardo, e si accorgono che occorreva sparargli in testa, è finita, perché gli zombie ormai stanno estinguendo la razza umana. Quindi adesso il discorso non è naturalmente con gli zombie, perché questi non sono zombie che se ne mangiano, ma questi sottometteranno, diventerà Eurabia, che in alcuni posti è così, è inutile negarlo, questo non lo può negare nemmeno Parenzo. Quel Molenbeek, ho letto sui giornali che quindi? Dal 90% sono bombarda Molenbeek. E quindi? Immagina, Luciani, tu sei di Roma, immagina Montesacro. Ma lì Molenbeek è così, perché nessuno ha controllato, scemo di uno scemo. Immagina il 90% di Montesacro musulmani. Sì, immagina Ostia, 90% di Ostia musulmani. Ma infatti ha sbagliato a creare gli agglomerati così, idiota! Ma ne frega un cazzo, perché Parenzo non è che viva Ostia. Ma tu, non è che viva Monte Carlo. No, Parenzo va a comprare Pata Nigra, Parenzo va a passeggiare a Pada Rizzoli, Parenzo va nei talotti chic. Parenzo gli islamici, sai come li vede? Li vede come i camerieri. No, oppure vedo, va vedo quelli che pulisce il culo, gli islamici è quello che gli fa, che gli pulisce il vetro. Questo è l'islamico per Parenzo. Invece la gente normale che ci vive accanto, la gente normale che magari è costretta a sopportare quello che gli prega vicino, quello che gli prega per strada, in alcuni punti di Milano si mettono per strada nei marciapiedi, la gente normale è costretta a sopportare tutte queste cose, la gente normale è costretta a vedere le figlie o le sorelle molestate da questi, perché quelli pensano che se tu non sei, cioè se tu sei infedele, la donna è una puttana che brucerà l'inferno. E non c'è nemmeno nessun problema, quella è la mentalità, capito? La mentalità nel medioevo. Parenzo, la mentalità è questa, non c'è dubbio. Quindi, però, non c'è nessun problema, voglio dire, non c'è nessun problema. Il problema sai qual è? Vanno sterminati gli islamici, allora, secondo questo genio. Se uno, questo crede idiota, che mia, se uno pensa che mia moglie o mia figlia, ma tu non hai né moglie né figlia, e brucia all'inferno per il solo fatto di non essere della sua parrocchia, no? Io se lo vengo a sapere, ma non c'è il Parenzo di turno che sta lì a dirmi abbiamo di essere politicamente corretto, di mettersi a 90. Però, ma ho capito, però qual è la soluzione? Spiegami. Non c'è, è terminare gli italiani. Allora, ascoltami, qui è una semplice questione di valori e di identità. Ma che cazzo finché uno si vergognerà dei propri valori, della propria identità. Guarda, ti faccio l'esempio del crocifisso del Natale. Agli islamici, al 90% di loro, non gliene frega un cazzo di celebrare il Natale a scuola del crocifisso. Stai sicuro, parla con chi cazzo vuoi. Al 99% di loro non dà alcun fastidio nel Natale. Tra l'altro, nel Corano la figura di Gesù esiste anche la figura di Maria che è venerata e rispettata. No? E allora non gli frega un cazzo se a scuola si celebra il Natale, ma il Parenzo testa di cazzo della situazione, in nome di una presunta laicità, di presunte puttanate, eccede di zelo, fa incazzare tutti, cioè fa incazzare quelli cristiani, gli eleva il Natale, e anche questi islamici si sentono. Però scusa Riccardo, ma la soluzione la soluzione per quello che riguarda il figlio Riccardo lo possiamo immaginare tutti a questo punto. Ma tu Parenzo, ma tu sei pure ebreo, ma come cazzo fai a fare lingua in bocca con gli islamici? Ma tu sei vissuto in Israele? Ma tu hai vissuto in Israele? Ma chiedi ai tuoi amici ebrei come vivono con gli arabi? Chiedi ai tuoi amici ebrei come vivono? Che loro sono circondati da questi che gli taglierebbero la gola domani mattina. Vivono blindati, vivono che fanno il militare tutti quanti obbligatori. Aspetta, aspetta, Riccardo. Ma che cazzo dici, coglione? Questa è realtà. Non sono le puttanate che spari tu, che fai disinformazione, che c'è un microfono in mano e dici solo cazzate, spari solo stronzate. Questa è realtà. Israele è uno stato militarizzato perché vive quotidianamente quello che noi stiamo vivendo solo in questi giorni. Questa è realtà, non sono puttanate alla Parenzo, è la realtà. No, Mogherini che piagne, che si mette a piagne. Tu pensa questi, ma tu pensa a Rashad al Baghdadi dopo che ha visto l'attentato, sono arrivati quelli, oh, Abu Bakr, abbiamo fatto l'attentato, perfetto, vediamo le reazioni. Ah, Mogherini che piagne. Porco Dio, cioè questo secondo me no, non si bestemmia. Non si bestemmia. Questo imbecille bestemmia e festeggia il Natale. Vergognati, bestemmia e difendi il Natale. Testa di cazzo, hai bestemmiato in diretta e ti prendi le responsabilità. Io ti denuncio perché hai bestemmiato in diretta e difendi il Natale. Chiudilo, chiudilo sto volgare. Chiudilo, difendi il Natale. Questo infame di merda. Ma che difendi il Natale, poi bestemmi. Fermi, tranquilli, è un'imprecazione, non lo so, è un'imprecazione. Dai, state tranquilli, state tranquilli. Musica, musica, musica. State tranquilli, Mario. Mario. Tra l'altro ero il solo il giorno dell'attentato, il solo italiano alla commissione esteri a parlare di questi argomenti. Io ho affrontato il Gran Mufti dell'Egitto, l'ambasciatore della Palestina, che veniva a fare l'elogio della, dell'intifada dei coltelli il giorno mentre c'era ancora il sangue caldo delle vittime cristiane. Vabbè, ma no, non ho è capito. Una Pasqua di sangue cristiano. Vabbè, d'accordo, ma aspetta, dici una cosa sulla cosa. Dici il Parlamento. No, il Parlamento, ma... non ho capito. Che bisogna fare con questi? Ma io dico che in base al principio di precauzione, che è un principio fondante dell'Unione Europea, per cui ci rompono i coglioni con i controlli sul formaggio, cioè qui bisogna fare un controllo preventivo e questo personale che convive a Molenbeek e negli altri ghetti di arabi, di magrebini con potenziali terroristi è potenzialmente pericoloso. Va sbattuto no, fuori però aspetta, Mario, devo precisare una cosa. Parenzo c'è. Parenzo non interviene perché dopo la bestemmia. Allora, no, abbiamo ricontrollato. Fermo, abbiamo ricontrollato. Ha detto no, abbiamo ricontrollato. Ha detto porco zio. Quello è una testa di cazzo. Io non sì, d'accordo, però ti ripeto, abbiamo ricontrollato. Può dire qualunque cosa. Ovviamente non è nostra responsabilità. Tra l'altro, l'ipocrisia, ma non ho detto nessuna responsabilità. L'ipocrisia. No, tu hai detto ti sei attaccato. Ha bestemmiato, io non intervengo più. Non ha bestemmiato, ha detto porco zio. Non mi interessa. Ma che vuol dire? Ha bestemmiato oppure no? La risposta è che ha detto porco zio. Ha bestemmiato. In più, l'ipocrisia di queste persone, lui come i tanti idioti, che difendono il Natale e la cristianità e poi bestemmiano, ti danno l'essenza. Ma non ha bestemmiato, è un'espressione che ha utilizzato. No, ha bestemmiato, è una merda. Ma no, ma abbiamo riascoltato. Fa schifo. Vabbè, fa schifo. Riccardo c'è ancora, Riccardo no, Riccardo. Coglione, non ci puoi parlare. Quando è in difficoltà è così, è un coglione. Aspetta. Arrivederci. Quando è in difficoltà è così, è un coglione con cui non puoi parlare. Divertiti. Mamma mia. Allora, che cosa hai fatto? Porco. È un modo di dire a Roma, è un modo di dire a Roma. Allora, hai fatto? Porco zio? Zio, no? Con la Z, ma tu sei con di Roma, la Z. Ma tu sei di Roma. Sì, no, ma lo so benissimo, ma lo so. Non si dice così a Roma. Sì, ma allora, forza, almeno su questo, Riccardo, pure tu, ma no? Stai tranquillo però, Riccardo, allora, se hai detto così non c'è problema, altrimenti sei un imbecille, Altrimenti sei un imbecille. Siccome abbiamo ricontrollato, hai detto così. Allora, Parenzo, che vuole? Abbiamo ricontrollato, è un'espressione. Non rompessi i coglioni pure, David. Dai, su. Forza. Ciao, Riccardo. Grazie. Ciao. Prego, ti abbraccio. Allora, Mario, io voglio capire che bisogna fare con questi lavoratori delle pulizie. Cioè, con questi In via precauzionale bisogna buttarli fuori tutti. Ah, buttarli fuori tutti. Sì, perché noi non abbiamo alcuna garanzia che sia personale affidabile, perché se la polizia belga non sa nulla di quello che succede a Molenbeek, figuratevi cosa può sapere. Dunque, cacciare in via precauzionale tutti quegli islamici che lavorano al Parlamento europeo. Almeno sospendere queste attività, fin visti i controlli. Vabbè, Mario, per Mario, adesso buttarli fuori. Mario. Io vi voglio dire una cosa che è riservata. Sì. Due autisti, cioè di quelli che accompagnano non solo noi ma gli ambasciatori eccetera, erano vicini all'ISIS, erano vicini al fondamentalismo islamico. Parenzo, questo qua è clamoroso. La notizia non è stata largamente divulgata, ma è di fonte sicura. No, ma noi spiegami, aspetta, terroristi che lavoravano dentro il Parlamento europeo e questo ti fa capire il livello di insicurezza e di superficialità che c'è allora, in Belgio, a Bruxelles. Fermo, Mario. Siamo Mario. Per il buonismo, saranno i sindacati. Mario, fermo lì, Mario. Allora, tu ci stai dicendo. Ma se gli hanno dato in mano il comune di Molenbeek, figurati se non gli danno in mano i lavori delle pulizie. Allora, fermo. Magari prenderanno fermati là. Allora, tu stai dicendo una cosa: ci sono due autisti del Parlamento europeo, cioè un posto vicino, capito, David? Sono stati individuati come sospetti di collegamento con gli ambienti del fondamentalismo filo-terrorista. Ma questo è gravissimo. Quando sono stati mandati via o no? Sono stati mandati via o no? E come mai i telegiornali non lo dicono? Ma che ne so, come se non mai i telegiornali. No, aspetta, Mario. Io sono intervenuto 3 volte alla commissione esteri il giorno della strage. Mario. Come mai censurano le cose Mario, che danno fastidio? Come mai non dicono questo è partito che il giorno della strage il ministro degli esteri della Palestina è venuto in aula? Ma che ce ne frega adesso? L'apologia Mario. Dell'intifada dei coltelli. Mario. Con arroganza e mi hanno ancora dato del fascista. Mario, devi stare tranquillo. Allora, ragazzi, ma che ci avete stasera? Siete tutti esagerati. agitati, cioè, faccio la parte ma c'è una situazione, ma no, ma faccio la parte io di quello tranquillo, ma che siete matti, ma allora questo, ma questo Belgio, Mario, ma questa Bruxelles è tutta da rifondare. Mario, scusami un attimo, ha 100.000 volte ragione Salvini. Allora vabbè, d'accordo, questo succede della Lega, però scusami Mario, voglio capire questa notizia qua. Ci sono, tu hai detto ci sono due autisti del Parlamento europeo, due autisti del islamici, islamici che sono, evidentemente che sono sospettati dalle competenti autorità di legami con gli ambienti, e sono stati segnalati qualcosa di più del sospetto, addirittura sono stati segnalati. La notizia è di fonte altissima, io direi ufficiale, ma sono stati io me ne prendo la piena responsabilità. Benissimo, sono stati segnalati, denunciati, sono stati cacciati, sono stati sospesi, corso degli accertamenti. Cioè, due autisti del Parlamento europeo sono stati. Ma la cosa vergognosa è che nessuno lo dice. Cioè, vabbè, ma lo stai dicendo tu, ma che ti devo dire? Di censura. Vabbè. Si continuano a fare discorsi bonissimi. Va bene, ho capito. Ciao Mario, ho capito. È in mezzo alle istituzioni. Ho capito, ciao, ciao, ciao. Ragazzi, Parenzo, però bisogna controllare sta cosa qua, eh? Cioè, questa cosa qua bisogna controllare. Se c'è il bestemmiatore, non parlo. Non c'è, non c'è. No, e ti ripeto, non ha detto quello che pensi. Non ha detto quello che pensi. Quello che ha detto Borghetti è di una gravità inaudita, che va ovviamente verificato. Lui dice, mi assumo la responsabilità e va benissimo, è molto serio. Evidentemente, gli avrei detto, non lo hanno voluto diffondere, forse proprio per non generare, anche all'interno del Parlamento europeo, in generale un allarmismo e una paura che già ovviamente c'è. Certo, se è vero e dovesse essere confermato, è una cosa gravissima. Da qui a dire sospendiamo tutti i lavoratori che ruotano intorno al Parlamento europeo solo perché sono di fede musulmana, vuol dire far partire la caccia al mostro. Sarei curioso di sapere chi è l'altissima fonte di Borghezio, però bisogna, allora, Borghezio, che frequenta il Parlamento europeo da un sacco di tempo, ha detto, questo lo dico per forse tutti, non è stata diffusa, che due può darsi che due autisti, forse non è stata diffusa per ragioni di sicurezza. Sì, lo so, non so, perché non perché sono tutti, no, ma infatti sicuramente due autisti del Parlamento europeo sono stati trovati collusi con organizzazioni criminali, con persone collegate all'ISIS, questo non lo so. Adesso recupereremo le parole di Borghezio e ovviamente le diffonderemo urbi e torbi. Secondo me ci avete la botta. La Zanzara. Cruciani, la mia donna è stata catturata. È andata nella rete del ragno, in macchina da sola si sta sentendo la zanzara. Allora, c'è una straordinaria vignetta sui controlli in Belgio, no? Intensificati i controlli in Belgio. Prima, lei è un terrorista, c'è uno tutto bardato di nero con gli occhiali, eccetera. Prima, il poliziotto dice, lei è un terrorista? No. Risposta del poliziotto, ok. Dopo, lei è un terrorista? No. Sicuro, sicuro? Sì, ok. Allora, Carlo da Bologna, vai Carlo. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera, ciao Carlo, ciao, ciao. Ascolta, io ho ascoltato qua in podcast Fini e Parenzo qualche ora fa. Sì, sì. Era come assistere, vedete, al dibattito, al tentativo, diciamo, di una vacca di montare uno stallone da monta. Dove, cioè, ma che c'entra, scusi, la vacca e lo stallone da monta? Stasera andiamo bene. Lo stallone da monta è Fini, ovviamente. E allora? Parenzo da vacca. Beh, ma che c'entra? Non ho capito. Cioè, c'entra. Cioè, perché secondo te ha ragione Fini e dunque Fini si sarebbe inchiappettato Parenzo, in questo senso? Beh sì, Parenzo. No, tanto per capire la metafora, sai. Sì, ognuno può avere le immagini che preferisce da questo. Sì, certo, vabbè. Allora. Ma io Parenzo lo vedo di più a dialogare con Saia, che a proposito invitatelo. No, ma Saia, che si chiama Saia. Ma Saia è stato uno straordinario pezzo di Zanzara di anni fa. Ma il personaggio. Quando il sì, però quando il personaggio valeva qualcosa sul piano dell'attualità, se vogliamo. Oggi chiamare il professor Saia, o Saia, non mi ricordo neppure, che è un vecchio fascista, un vecchio arnese fascista, che si metteva pure in divisa, non ha nessun senso. Poi dopodiché si può sempre fare, ma non mi viene in mente di fare Saia. Ma che c'entra adesso? Sempre per andare di metafora, è come la presa con la spina, dove la spina è Parenzo e la presa è Saia. Beh, comunque, tornando al discorso, queste metafore? Non ho capito. Beh, le adoro. E tornando al discorso, Parenzo ieri sosteneva una cosa, oggi ne sosteneva sostanzialmente un'altra, cioè il giorno è per l'integrazione, il giorno dopo è per i bombardamenti a tappeto. No, guardi, il fatto che non posso neanche sforzarmi di farle capire, perché vedo che c'è un problema neuronale. Io ho sempre sostenuto, uno, il fatto di fare la guerra all'ISIS, sempre detto, lo troverà, non troverà mai una mia cosa contraria. Ciò non toglie nulla al tema vero, che è quello invece dell'integrazione, che nulla ha a che vedere con quello che è avvenuto in Belgio, in quel quartiere che era un quartiere in cui lo Stato non c'era. Che non è, quindi l'integrazione con una popolazione che protesta una religione medievale. Ma secondo lei quello lì è un modello di integrazione che posso difendere io? Ma un luogo dove la polizia non entra? Ma secondo lei si vuol fare la guerra con questi qua, cioè bisogna rendere illegale qua l'Islam nei paesi occidentali. Cioè illegale l'Islam, che vuol dire? Per forza di cose, perché se noi siamo lì a dire una religione medievale non si integrano mai, e tutte secondo me è impossibile l'integrazione, bombardarli a tappeto con i droni, con gli effetti, con gli effetti collaterali. Cioè bisogna eliminare l'Islam dell'Europa, secondo te? Ma no, eliminare l'Islam da un punto di vista di pulizia etnica assolutamente no, ma rendere questa lì a professarsela a casa loro, insomma non voglio sì, dire. Vabbè, ho capito, ma che vuol dire? In Francia ci sono 4 milioni di musulmani, Italia 1 milione, fai la guerra a 1 milione di cittadini. Ma, ma se gli vuoi fare la guerra, sì, tra l'altro sono andate tutte le superpotenze mondiali. Sì, ma ho capito, se non vuoi fare la guerra, che cosa fai con tutti i musulmani che sono in Europa? Cosa fai? Impedisci di pregare? Cosa fai? Non ma ho capito. Sì, ma, beh, non professassero al limite, ma non è il mio pensiero in realtà è un altro. Qual è? Il mio pensiero è semplicemente che l'ISIS nasce, o comunque sia questo Stato Islamico, nasce come tentativo di spostare l'attenzione lì per altri fini, quindi perché altrimenti una Russia che va là, un'America che bombarda qui là, siamo nel campo 80, della geopolitica. 80.000 terroristi di sradichi. Va bene, Cesare da Firenze, vai Cesare. Oh, buonasera Luciani, l'Europa è aspetto. Dimmi, in attesa per la pubblicità mi va bene a Pier Borghezio per fargli parlare d'aria fritta. Insomma, io, la prossima volta un po' più veloce. Comunque, senti, volevo parlare una cosa un po' sulle cerine del terrorismo e tutte queste storie degli ultimi minuti. Dimmi. Hanno animato un po' la discussione. Ma te, ma provavo a essere vegetariano, vegano? No, francamente non ho mai provato a essere vegetariano o vegano. Neanche per un quarto d'ora. Ma che vuol dire un quarto d'ora? Uno o lo è no, o non lo è. Ma non è un tentativo, che... poi uno giudica. No, perché ti racconto la mia esperienza? Io ci ho provato a essere vegetariano. Sì. Sono messo lì il 1° gennaio, il classico buon proposito dell'anno nuovo. Ho retto 12 ore perché poi per non mangiare la carne mi sono trovato a mangiare la crepe con la Nutella, le patatine fritte. Mi sono guardato in tasca, ho speso di più, ho mangiato peggio, ma andavo a cagare tutto e sono tornato a mangiarmelo dopo. Quindi la mia storia di vegetariano è durata 12 ore. Lo so, Cesare, può succedere, di diventare vegetariano anche per un breve periodo e poi di rifiutare completamente perché uno non riesce a staccarsi dai cibi che di solito mangia. Ma una cosa è essere vegetariani, una cosa è essere vegani, sono due piani completamente diversi. Sì, per carità, però insomma, ora partire subito in tromba a essere vegano è un po' difficile, quello partito dallo step intermedio. Vabbè, mi è sembrato già abbastanza. Emiliano, complicato. Provincia di Alessandria, Emiliano, vai. Sì, buonasera. Vai, Emiliano, dimmi. Allora, prima di tutto un bel vaffanculo a lei e al suo co-conduttore. Ottimo, due vaffanculo, sì, no, uno per me e uno per lei. Lei ne è passata un'ora che ha mandato a fare in culo vegani e vegetariani, tutti quanti, l'ha fatto in diretta un'oretta fa. Ma non mi ricordo l'espressione che ho usato. Io vaffanculo ha detto. Bene, bene, ma non mi ricordo gli estremi. Lo mando a lei così che siamo pari, va bene? Ma mandami a fanculo, va bene. Poi, un'altra cosa bella, visto che sono mesi che vi sento scagliarvi addosso a vegani e vegetariani. Ma non ci siamo scagliati addosso a nessuno. No, voi vi scagliate addosso invece. Vabbè, amico continuate mio. A fare delle polemiche, non avete fatto un minuto di informazione. L'informazione sui vegani. Sì, l'informazione. Magari la gente vorrebbe sentirsi dire l'informazione sui vegani. L'informazione non sui vegani, su che cazzo di senso ha essere vegani? Ma guardi, abbiamo intervistato un tale numero di persone su veganesimo, vegetarianesimo, eccetera. Probabilmente non che avete intervistato quelle giuste. Diccelo tu. La voce quando era il momento. Diccelo tu, professore, diccelo tu. No, maestro, non diccelo lo dico tu. Io vi dico che forse potreste informarvi un attimino su quanti litri di acqua ci vogliono per fare un cazzo di chilo di carne. Già sentita e questa. Quanti ce ne vogliono per fare un'insalata? Già sentita questa. L'ha sentita, l'hai detto quanti ce ne vogliono? Sì, l'ho sentita, non me lo ricordo, lo vado a riprendere, non c'è problema. Non te lo ricorda nessuno di quelli che ti No, ce lo ricordiamo, non ti preoccupare, ce lo ricordiamo. Poi? Poi ti faresti bene ad ammazzarteli gli animali che mangi. Non andare a vedere il macello, ammazzateli te. Ma no, io non li voglio ammazzare perché non è il mio mestiere. Non li vuoi ammazzare, ma li vuoi mangiare. Non è il mio mestiere, ci sono altri che lo fanno. Ah, sicuramente sono tutti felici di farlo. Beh, sicuramente chi lavora lì, chi lavora. La maggior parte sono dei poveracci che devono fare quello per campare. Vabbè, ma non ho capito. Gente come te che se ne sbatti i coglioni. Ma qual è il tuo problema invece? Che tu il sei mio uno... problema è che sì. sono mesi che vi sento rompere i coglioni alla sì. gente che ha fatto una scelta diversa dalla vostra. Sì, tu che scelta hai fatto, professore? Io ho fatto la scelta per il momento di essere vegetariano. Bravo, bravo professore, bravo maestro. Perché dobbiamo essere no, tutti? No, che maestro, che professore? Perché dobbiamo professore? Perché dobbiamo essere tutti come te? Esasperate le persone. Perché dobbiamo essere tutti come te? No, non ho detto che dovete essere come me. Beh, ho detto sì. che non dovete scagliarvi contro chi non è come voi. Non mi sto scagliando, io mi scaglio contro quelli che pensano di dividere il mondo in due. Da una parte i buoni, quelli che sono vegani / vegetariani, dall'altra i carnivori, quelli che continuano a mangiare la carne. Ma evidentemente tu sei dalla parte dei buoni, dunque che problema c'è? No, io non mi sento dalla parte dei buoni. Evidentemente sì. dalla parte di quelle che mangia la scelta che e chi mangia la carne chi è secondo te? Chi mangia la carne è uno che non ha ancora capito che farebbe meglio non farlo. Non abbiamo capito, dunque siamo a un livello inferiore, diciamo, di comprensione. Ma non è nessuna questione di livello, è questione di consapevolezza. Sì. Ah, beh, cioè dunque non siamo consapevoli, non siamo ancora stati illuminati. Non siamo certo. stati illuminati, non abbiamo studiato abbastanza, giusto? No, non è questione di studiare, è questione cosa? Di capire. Capire, appunto, abbiamo qualcosa che non va, cioè, se non riusciamo a capire o non vogliamo sì, capire. Sì, sai come si chiama? Come si chiama? Ignoranza. Bravo. Ignoranza. Siamo tutti vedi, cioè, da una parte ci sono quelli che sanno, cioè quelli che sanno, e dall'altra gli ignoranti. È quello che mi fa andare in bestia, capito? È quello che mi fa andare in bestia, che tu pensi che c'è un mondo di ignoranti, quelli che non sanno, e dall'altra un mondo in cui ci sei tu invece, che ancora non sanno, che ancora non sanno, certo, e dall'altra invece un mondo privilegiato, un mondo fatato, un mondo meraviglioso, no? Che può essere anche una rinuncia, no? Ma privilegiato nel senso perché è riuscito a essere consapevole da quel punto di vista. Privilegiato, un mondo privilegiato perché sa, in cui tutto è più chiaro, in cui non si uccide nessuno, in cui non si sprecano risorse umane, non si spreca l'acqua. Non uccidere nessuno, non siamo. Non... Io parlo I pesci di animali, i pesci li mangi? No, i pesci non li mangi, i poveri pesci non si devono ammazzare i pesci, eh? Cioè tu l'orata non te no, la mangi più, il branzino non te lo mangi più, il branzino. No, il branzino non me lo mangio più. Perché? Sai perché? Perché? Guarda, nasce da lì il mio spiegami perché il branzino non si perché può mangiare? Perché quando me ne sono comprato uno, sì. già morto, fra l'altro, non era un branzino, era un'orata. Allora? Gli devi tagliare la pancia e toglierla interiore. Oh. No, col ditino. E allora? Col ditino. E dunque? Ecco, quando ho fatto questa operazione qui, dopo averla già fatta tante volte allora? In vita mia, allora? Ho provato nausea. E perché? Perché mi faceva schifo, perché vedevo sto animale e tirargli il dito nella pancia e togliere interiore. Mi ha fatto capire che era una cosa che non posso fare a meno di mangiare il pesce. Puoi fare a meno di mangiare il pesce, ma amico mio, ma se tu vuoi fare questa scelta, va bene, benissimo. Siamo tutti contenti. Sì, l'importante ma... è che non rompi i coglioni a noi, però. Ma che invece ti sto rompendo i coglioni, no, scusa. No, importante... che voi siete mesi che rompete i coglioni. Importante che non dividi il mondo in due e non consideri quelli che non hanno... Ma io non cerco di dividere il mondo in due. Ma io allora e neanche vi do dei titoli o dei vaffanculo, ve l'ho dato stasera perché me l'avete dato in diretta. Emiliano, io mi rivolgevo agli estremisti, che sono la maggior parte, peraltro, dei vegani. Tu non sei nemmeno vegano. Dunque, perché ti sei chiamato in causa? Ti senti chiamato in perché causa? Perché sono vegetariano e il mio obiettivo è quello di diventare vegano. Diventa, il tuo obiettivo è questo, il mio obiettivo è un altro nella vita. Ciao, arrivederci. Per carità, ognuno al suo. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. La Zanzara. Allora ragazzi, che bello, Parenzo, Enrico Rizzi, sai chi è Enrico Rizzi, no? Il partito animalista europeo, eccetera, eccetera. Un altro matto. Allora, è stato condannato a pagare 700 euro, pochi, purtroppo pochi, per avere insultato dopo la morte, ti ricordi, anche qui alla Zanzara, Diego Moltrer, che credo fosse il presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, no? Che fu ucciso dopo una battuta di caccia, perché faceva il cacciatore o accompagnava un cacciatore. È stato multato per diffamazione, è stato condannato per diffamazione, secondo me giustamente, io non amo i processi, non amo, però insomma, per quello che ha detto, è stato condannato 700 euro, pochi. Pochi, sì. e lei è felice per la morte di una persona, per la morte di una persona. No, di un cacciatore diverso. Ma è una persona. Ma è diverso, è un uomo. Non me ne può fregare di meno. È questa un uomo. Ogni giorno prende un fucile, si esce alle 6:30 del mattino, imbraccia un fucile e sa benissimo che va ad uccidere altri esseri viventi. Un uomo, è morto un assassino, è morto un assassino. Scusi, ma la famiglia di fronte al fatto, metta che qua della famiglia, ma lei sa chi se ne frega della famiglia? Ma chi se, ma cosa vuole sentirsi dire? Lei mi sta chiamando perché io ho scritto un post, sì, dove ho detto che sono felice che è morto un cacciatore. Ecco. No, allora, è morto una persona, non un cacciatore. È morto un cacciatore, un assassino, poi un vigliacco, un infame. Okay, per ma la famiglia, la moglie, i figli, come non devono sentirsi di fronte? Non niente della famiglia. Io insieme mi credo a centinaia di migliaia di migliaia di persone. Ci auguriamo che questi signori si sparino tra loro, si uccidono tutto, si tolgano dalle scatole, in modo tale che gli animali possono continuare a vivere. Ma lei non si vergogna di aver scritto infame? Adesso sai cosa vuol dire morire? Cioè, lei si dovrebbe vergognare. Ma lei si deve vergognare? Ma si deve vergognare. Io che c'entro? Lei si dovrebbe vergognare. Ma scusa, questo signore cosa faceva tutti i giorni? Era un politico, aveva una professione a tempo perso, per hobby faceva il cacciatore. Certo, perché per hobby uno va a uccidere. Io non sto cambiando le carte in tavola. Si è rallegrato per la morte di una persona. E glielo confermo. Ma no, ma infatti questo va benissimo. Sono felice, Cruciani. No, ma Cruciani, sono felicissimo. Guardi che la famiglia, la famiglia di questo qua le dovrebbe fare un culo così, lo sa, le dovrebbe fare un culo così. Guardi, se io sono felice che quello è morto, quello Stato per cosa mi deve condannare? Vabbè, ma lasciamo perdere adesso questa roba qua, lasciamo perdere. Se mi deve fare un culo, che culo mi deve fare? Vabbè, io dico la famiglia, per quello che lei ha detto, per quello che lei è morto, siccome è morto, non mi può più denunciare. Ma si vergogna anche di quello che ha detto. E invece, amico mio, ma erano parole terribili, te le ricordi, Parenzo? Parole terribili. Certo. Ed è stato condannato anche a poco. L'unico che mi può denunciare è il morto. Ma invece, che cosa è stato condannato? Diffamazione, vale. diffamazione. Tiè, Rizzi, tiè, paga, molla il quattrino adesso, molla il quattrino. Allora, abbiamo un ospite prontissimo, però devo darvi un'altra notizia, dovevo darvela all'inizio della trasmissione, ma rifletteteci, poi domani ne parliamo. Un rumeno, poteva essere anche un italiano, non è quello, fracassa il cranio a martellate a una 22enne per rubarle 15 euro, credo, a Milano nei giorni scorsi. Per il PM però non è tentato omicidio, questo era clandestino, pregiudicato, ma lasciamo perdere. Dovrà rispondere solo di lesioni gravi e rapina. Adesso, per carità, io non voglio discutere i giudici, ognuno è libero, c'è la libera interpretazione delle cose, ma amico giudice, donna peraltro, posso dirti una cosa? Se uno ha in mano un piccone, un martello e lo dà in testa a una donna, cosa vuol dire questo qua? Perché non può essere tentato omicidio? Perché solamente lesioni gravi e rapina? È tentato, mi sembra abbastanza evidente. Qual è il punto? Vorrei capirlo. Qual è il punto? Allora, a Roma non si presentano solamente i nomi che sappiamo, cioè Meloni, Bertolaso, Giachetti, La Raggi, eccetera. C'è anche il mitologico cavaliere Parenzo, Mario Auriemma. Mario, cavaliere, come stai? Ciao. Bene, voi tutti bene state, sì. Ma non è parente dell'Auriemma del Napoli? Sei parente di Auriemma, quello che viene a Tikitaka, di Napoli? Sì, siamo parenti. C'è pure un figlio che si chiama Raffaele Auriemma, perciò siamo parenti. Cioè, non ho capito, sei parente di Raffaele Auriemma? Sì, siamo parente lontano. Parente lontano di Raffaele Auriemma, beh, fantastico. Io sono tifoso della Juve, lo tifoso del Napoli. Ah, tu sei della Juve? Certo, io sono 32, so io ho venduto i calciatori a Juve, ho venduto a Cono, Luciano Paoli, Vignolo, ho venduto. Ma cosa fai il cavaliere adesso? Che facevi, Facevi il presidente Calcio Avellini assieme con Antonio Sibilio. Ah sì, Sibilia. Sì. Ho capito, dirigente, ma cosa c'è Roma, signore? Che facevi, che dirigente eri? Che facevi? Invece presidente Calcio Avellina. Ah, vicepresidente Calcio Avellino. Calcio Avellino, andava a calcio mercato, facevi l'acquisto e vendevi i calciatori. E che hai venduto tu? Tacconi, poi? Io ho venduto Tacconi, Luciano Favre e Vignolo, ma è stata migliata con Iperta. Quanti soldi ti sei intascato all'epoca? Zero. zero, no? Infatti il movimento si chiama Italia Morale. Morale. Oh, ma che vuol dire? Perché Italia Morale, Cavalier? Perché bisogna essere morale, bisogna essere per bene, non bisogna rubare. Perché sei cavaliere? Io sono cavaliere della Repubblica Italiana. Chi ti ha nominato? Vabbè, sono tutti cavalieri d'Italia. Giulio Andreotti, grande uomo. Grande statista, dici? Grande statista, Giulio Andreotti. Il più grande di tutti? Il più grande di tutto il mondo, Giulio Andreotti. Il più grande di tutti, Andreotti. Ma perché ti candidi a Roma? Voglio capire. Perché a Roma, io ho 50 anni che sto a Roma, io 60 anni che sto a Roma, ho fatto il calcio a Roma, ho fatto Pomezzo, Civitavecchia, sì, Frosinone, ma quello non è il calcio. Non è Roma, però. Non è Roma quello. Vabbè, Pomezzo è Roma, Pomezzo è Roma. Pomezzo è un comune a sé stante. Comunque, vabbè, è tanti anni che sei a Roma, ti candidi a sindaco, ma io sto pensando ancora, perché gli accordi se mi fai gli accordi con chi li fai con chi li devi fare gli accordi? Non ho capito. Ma faccio un costruttore, stanno appresi i Forza Italia, abbiamo detto di no. Ma il costruttore chi? Con Marchino voglio fare l'accordo. Vuoi fare l'accordo con Marchino? Secondo me adesso verosimilmente il dottor Marchini, che io anche conosco, cioè, secondo te verosimilmente, sentendo anche l'eloquio dell'ottimo Oriemma, secondo te è possibile un incontro del dottor Marchini? Lo hai sentito per telefono? Ma sabato Marchini è stato con noi, è stato i convegni che abbiamo fatto a Udè Bernini, Piazza Barberina. È venuto pure lui, Barberini. Barberini. Ma senti una cosa, rispondimi un attimo una cosa, ma tu che faresti? Italia Morale che vuol dire? Tutti in galera, manderesti? Tutti in galera? I corrotti tutti in galera, come di Roma, non si deve presentare nessuno. Come nessuno? Nessuno, i candidati che stanno presentando, compresi i 5 Stelle, non si deve presentare nessuno. Ma come nessuno? Sinistra uguale, la sinistra sono tutti corrotti, sulla sinistra, lo sappiamo, no? La sinistra sono tutti corrotti, vabbè, ma i 5 Stelle no, però. E i 5 Stelle che fanno? Non capiscono niente, capiscono zero. A Livorno hanno fallita, a Pomezzo hanno fallita, a Civitavecchia hanno fallita. Scusa, questa Raggi, però, questa Raggi è una che sembra carina, simpatica, brava. Ma Raggi che dice solo barzellette, dice solo barzellette, c'è Raggi, è una donna così. Fisicamente, bella donna. Fisicamente è carina, però, sta. Ma fisicamente, che la fai fisicamente, fratello mio, fisicamente, che la fai? Che? La morale, c'ho tutta Roma, la morale. Vabbè, la morale. Non ce l'hanno i 5 Stelle. Perché non ce l'hanno? Basta, non ce l'hanno i 5 Stelle, la morale. Scusami un attimo una cosa, Cavalier, ma questa Raggi, che cos'è che non ti piace? È una bella ragazza, innanzitutto, no? Come la trovi tu? E che c'è? Mangiamo bella ragazza, che mangiamo noi, ci mangiamo una bella ragazza. Il popolo ha bisogno di gente per bene. Il popolo. Il popolo italiano, il popolo romano. Senti una cosa, questa Raggi. Ma di fame? Ma cosa dice? Ma chi muore di fame? La gente non ci fa a fine mese, non riesce ad arrivare a fine mese. I politici basta. Ma che c'entra il comune col fine? Scusa, con la gente, ma se i politici basta, chi cazzo ci va a governare Roma? Scusa, Italia Morale. Cioè, ci vai tu, fai il sindaco tu e poi chi metti come assessore? Ma come tutti la gente che conosco, tutto morale, adesso morale. Tutti non mai morale. Rubato i soldi, manca solo il divino assessore alla viabilità. Allora, non ho capito, come giudichi, per esempio, che ne so, Giachetti, lo conosci Giachetti? Sì, io conosco, ma è fuori moda. La Meloni? Uguale, è da vecchia Repubblica, dai, con Berlusconi, avevi presente la Camera, il ministro. Bertolaso? Sta la protezione civile, dai. Vabbè, questo lo sappiamo, Bertolaso, dai. C'è la gente nuova, mai fatto politica. Vabbè, Marchini è buono, ti dici, no? Marchini è buono, ma non ha mai fatto politica, ha fatto 3 anni e basta, Marchini. Tomba su Marchini, finito Marchini, Parenzo, finito. Ha rovinato i 2 minuti. No, Marchini è una persona per bene, onesta, faresti... Il gay pride a Roma. Ah, tutto a casa loro, i proci ne voglio dei proci io. Ma come, che significa? Ma questo si cambia, i proci vuole a casa, isola, gli stranieri tutto a casa loro. Ma come gli stranieri a casa? I turisti? Ma che programma è? E i turisti? I turisti, va bene, i turisti vanno arrivare, saranno 2 notte e poi partono. Come di notte e poi partono? Ma come vengono? I turisti tutto a casa loro. Ma che vuol dire turisti a casa loro? Ma che razza di programma è? Come fa a guadagnare Roma? Come fa a prendere i soldi? Ci guadagno Roma. Scusi, i turisti, chi può venire e chi non può venire? Come faresti tu? Ma io invece sono io, quelli che c'ha i soldi, non c'ha i soldi non può venire a Roma. Ah, solo chi c'ha i soldi può venire? Certo, solo quelli che c'ha i soldi. Ci sono un sacco di pellegrini che vanno dal Papa. Se vanno il panino e basta i pellegrini, dai, sono solo il panino. E allora? Vanno a fare la pizzicheria, spendere 20 euro e sta mangiando panina. Fuori, tutti via, basta, bloccare tutto. Tutti via, a casa loro. E i froci? I froci a casa loro uguale. Ma dove? A casa stanno magari ci sono un sacco di froci a Roma, che facciamo? A Roma noi vogliamo i froci a Roma, a Roma noi vogliamo i froci, a Roma noi vogliamo i froci. Mio, è pieno di froci a Roma. No, non è vero, perché dico Roma la conosci, guarda Roma non... Ma è pieno di froci. Ma è pieno di froci! No, cavaliere. Non possono essere mignotte, ma froci no. Ah, ma tu sei Io sono d'accordo con te, i froci non ci sono. Mignotte, sono d'accordo con te. Ma io non ho detto niente. Mignotte, che faresti? Luci rosse, quartieri? Luci rosse, quartieri, chiudeste le case chiuse. Bei tempi quelli, bei tempi. Bei tempi. Andavi a Mignotte pure te, Beh, quando ero ragazza, sì. Ma anche adesso pagherai sicuramente, no? Ma che paga? Io sono un bel ragazzo, già paga. Che paga a pagare io? No, le mignotte, dico, non le paghi. Gratis, sei con me, gratis. La morale, cioè partire dalla moralizzazione. Ma che cazzo c'entra? Morale. Ma scusa. La morale. Scusa, cavaliere, ma ancora ti si rizza a te? Quanti anni hai? Si alza ancora, 75 anni, si alza ancora. Si alza ancora, ma col Viagra? No, sono pratica, zero, sei niente, zero. No, sei sicuro che non pigli Viagra, Charlie? Sicuro, sicuro, il 100%, il 400%. E tua moglie quanti anni ha? No, mia non ce l'ha più, mia moglie è morta 16 anni fa. 16 anni fa, chi c'è adesso? Chi c'è? Solo, sono solo io, solo. Sei solo, dunque, con chi vai? Io, ma che donne, tutte le donne del mondo. Sì, ma con chi, concretamente, quante ce n'hai? 20 anni, 25, 30 anni, ma 40 amico mio, 20 anni. Anni, una di 20 anni, ce n'hai 70. 20 anni, pure 20 anni. Ma non è che vengono, com'è che le paghi queste qua? Ma che paga? Dai 10 euro e fai finita la storia. Ma come 10 euro una di 20 anni? Ma che Italia morale, amico mio, Italia morale. Italia morale, bravo, Italia morale. Italia morale, paghi 10 euro una di 20 anni. Ma dai, allora. 10 euro, basta, 10 euro, basta. La mangiare con un panino e basta. Scusami un attimo, euro. Tu lo sai, Parenzo. Sono curioso di sapere quali saranno i talenti presenti nella lista di questi. No, ma Davide, devi sapere che lui è un grande tifoso dei tassisti, vorrebbe eliminare tutto il trasporto pubblico tranne i taxi. Esatto, i tassisti, il migliore assoluto. Sì, ho capito, ma gli autobus non possono uscire, tutti i tassisti accendi di Roma. No, ma non ho capito, i tassisti e la metropolitana non si deve usare. No, ma la metropolitana è chiusa, la metropolitana. Gli autobus in periferia, vanno in periferia. In periferia. Di Roma sono i tassi, sono i tassi. Solo i taxi al centro di Roma. Scusa, ma la gente come fa con i soldi? Scusa. Come fa? Insomma, i pullman pagano 30 euro, i pullman fanno Calossè, Piazza Venezia, non finiti. Pigliano un tassi, 155 persone. Pizza di Roma, mezza giornata. Ma ho capito, amico mio, ma 150 euro mezza giornata sono un sacco di soldi, una marea di soldi, 150. Ma 5 persone, 30 euro, vanno sull'autobus, vanno a pagare 30 euro per dire di Roma. Ma roba incredibile, guarda. Se deve finire sta storia a Roma, se deve finire i vecchi politici a casa, i vecchi politici a casa, tutti nuovi. Italia morale, ma Italia morale di che? Quale Italia morale? Se vai con le bambine di 20 anni per 10 euro, gli dai... loro, scusa, dietro loro, vanno a loro, mica gli dici, non ne ho mai chiesto a nessuno. Ma scusa, ma i froci che si sposano a Roma, lo faresti tu se fossi sindaco, no? Faresti un bel registro? No, no, i froci niente, i froci, a casa loro. A casa loro quale se abitano a Roma? Quale casa loro? Se non abitano a Roma, li mandiamo fuori Roma, via, cacciare i froci da Roma. Cacciare i froci da Roma. Ma su, sai cosa significa la parola Carminati, Buzzi, sai cosa significa? Ma questa dice, la devi dire, la vecchia è giunto comunale. Mafia capitale. Ma c'è ancora la mafia capitale, Guardi come che stanno, che ho fatto i commissari di Roma, ce l'ho fatte 20.000. Hanno dato, l'AMA, hanno dato la falsa. Ho detto al commissario, sì. C'è ancora la mafia dentro, la mafia capitale, c'è ancora dentro la mafia. Ma tu che faresti con questi mafia capitale? Butteresti la chiave? Arrestati e buttare la chiave? Subito, la chiave subito, da tutta la vita dentro un carcere. E la pena di morte? La pena di morte no, lasciamo la pena di morte, la togliamo da mezza pena di morte. Io moro lì, dentro a carcere. Butta la chiave. E i Rom? I campi Rom? I Rom, li chiudo fuori Roma, metto in campagna, metto i pecore. Metti i maiali, lì non sei, ma i Rom, e dunque i campi Rom chiudere, magari anche sterminarli, perché no? Sterminare no, Rom. Terminarli no. Però metterli in campagna. In mezzo ai pecore. Appresso alle pecore. Parezzo, un gran programma mi sembra questo qua. Sì, un programma un po' ambizioso e anche confuso da certi punti di vista. Però... Il cavalier Mario Auriemma, un applauso al cavalier Auriemma, dai, applausi al cavalier Auriemma. Sindaco di Roma, ci sentiamo domani 18:30. Cavaliere! Ciao! Dalle 18:33 alle 20:50 ho solo un chiodo fisso in testa.